Ti voglio bene mille, forse 1100, anche 1200, forse 1300, per dirti che io sono contento di esserti accanto, per dirti che io ti vedo col sorriso che si apre sul tuo viso e guardo nei tuoi occhi, la neve è tutta fiocchi, il sole dietro al monte come un bacio sulla fronte, per dirti che io ti voglio bene mille, forse 1100, anche 1200, forse 1300, per dirti che io sono contento di esserti accanto, per dirti che io ti aspetto se vai piano, se anche lasci la mia mano. E certo siamo insieme, insieme più felici, come le stelle vicine, più belle, più grandi, per dirti più forte che io ti voglio bene mille. Nana, nana, nana. E lo voglio ricordare che ti voglio bene mille.